Europa 24. Cari ascoltatori, ancora un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento con l'Europa. Ripartiamo oggi dal Consiglio Competitività che si è svolto ieri a Bruxelles, durante il quale i ministri dell'UE hanno autorizzato il nuovo schema per le colture OGM in Europa. Le nuove regole consentono di fatto ai singoli stati di scegliere autonomamente se vogliono o meno autorizzare le colture OGM sul proprio territorio. Si tratta, come ha detto il ministro lettone per l'agricoltura Janis Duklav, che coordina i lavori dei consigli, appunto del Consiglio Agricoltura, di una scelta di libertà. In realtà non tutti sono d'accordo. L'autorizzazione alla coltivazione degli OGM è stata bloccata per diversi anni, durante i quali alcuni grandi del biotech, come la tedesca BASF, hanno di fatto abbandonato il mercato europeo. Nella plenaria del 13 gennaio scorso a Strasburgo è stato poi votato lo schema attuale, quello di cui vi abbiamo parlato, sostenendo che si tratta di un modo per assicurare più potere agli Stati membri. Ora c'è chi, come Frederik Ries, liberali belgi che citiamo tra i molti, che sostengono questa iniziativa, lo ritengono una scelta di libertà, ma c'è anche chi si preoccupa. Tra questi i Verdi, in particolare i Verdi europei nelle loro varie formazioni, che non hanno sostenuto questo schema, affermando che l'Unione Europea diventerà una specie di patchwork, quindi di fatto una situazione di caos nel regime degli OGM. Tra questi c'è anche Bart Stess, belga, responsabile del Partito Verde, appunto, del suo paese, ma anche capo della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare. Sentiamo un passaggio. We only have one authorized at this moment, the Mon 810 of Monsanto. Fino adesso abbiamo autorizzato solamente il Mon 810, ovviamente, della Monsanto, dice Bart Stess. C'è un nuovo prodotto in fase di approvazione, il Pioneer 1507, e anche altre sementi che stanno arrivando appunto sui tavoli dei regolatori di Bruxelles. Credo, dice Stess, che nel prossimo anno riceveremo molte richieste per l'uso appunto delle coltivazioni commerciali attraverso l'Unione Europea. Ecco, quello che preoccupa decisamente Stess è il tema della contaminazione. Il deputato verde però sottolinea la situazione che si verrà a creare. Infatti è probabile che accada che accanto a un paese che ha autorizzato gli OGM ce ne sia uno che non ha autorizzato. D'altra parte i numeri dicono esattamente questo. Insomma, una situazione complessa che, come minimo, dice Stess, imporrà alla Commissione europea, agli organismi dell'Unione, uno strettissimo controllo per ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Ecco, le nuove regole, concludiamo questo capitolo, entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sul giornale ufficiale dell'Unione europea, e attualmente sono almeno 19 gli stati che si sono dichiarati contro la coltivazione degli OGM nei territori, mentre 5 sono a favore, e sono la Spagna, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Romania e la Slovacchia. Altri 4 paesi non hanno espresso una posizione. E ora cambiamo tema, parliamo della crisi nell'Europa orientale. Il ministro degli esteri ucraini Pavlo Klimkin ha espresso dei dubbi sulla tenuta del cessate il fuoco in Ucraina, definendo la situazione molto difficile nonostante la tregua in vigore. Intanto qualche passo in avanti è stato invece fatto sul fronte delle forniture di gas. 6 ore di trattativa, alla fine l'accordo c'è, ma restano fuori le forniture a Lugansk e Donetsk, che sono una questione altamente complessa in termini legali, tecnici e politici, per cui saranno ulteriormente discusse. Con queste parole lasciano il tavolo le parti il ministro russo Novak, l'ucraino Demchisin e il vicepresidente della Commissione europea Sefcovic. Siamo riusciti a salvaguardare l'applicazione del pacchetto invernale per le forniture a Kiev e quelle all'Unione restano sicure, ha affermato Sefcovic. Di tutto il resto, comprese le forniture estive, si parlerà in un nuovo vertice trilaterale da tenersi entro fine mese. L'Ucraina Naftogaz si è impegnata a rispettare i prepagamenti, a ordinare sufficienti quantità di gas per il fabbisogno domestico e garantire il transito delle forniture all'Europa. A sua volta la russa Gazprom ha promesso di consegnare il gas nei punti stabiliti. Il sistema di fornitura di gas ha resistito tutto l'inverno, attraversando anche la crisi militare. Poi la scorsa settimana sono ricominciate le accuse reciproche sulle forniture all'est del paese. Impossibile verificare sul posto, hanno ammesso a Bruxelles. Da qui la proposta di separare la situazione del Donbass da tutto il resto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per l'appuntamento con Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Vi ricordo, sul sito radio24.it trovate questa e tutte le trasmissioni dedicate all'Europa. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.